già volte. E cioè, proprio se cade in bagno lo sono fregato. Il discorso è quello. Mamma mia, devi stare sempre attento, devi stare. Già ti gusta, da tre busta, già avrà la condanna, già. Non già tre busta perché, cioè, le malattie possono capitare a tutti. Infatti già lo so, non dirà a me. La voglia, c'è anche Giampiero qui, quindi, compra anche lui, devo lavarlo. Devo girarlo, adesso voglio dire devo uscire insieme a lui, fargli fare questa visita per avere i soldi suoi, dopodiché sarà anche a mia sorella, ma mi sbatte un cazzo a me. Devo stare io cazzo tutti i giorni a già basta quello che faccio, cazzo mi posso dividere in due, no? Lascio tutto a mia sorella, sarà anche a mia sorella, non me la fotti nulla a me di quello che vi tira, quello che vi tira, no? Non me la voglio fare per cose che basta che mi lasciano in pace a me. No Antone, tu ti sei sacrificato, cioè ha pure una parte dei soldi, aspettano pure a te, cosa siamo di zente. E a me non me ne frega proprio un cazzo di quei soldi lì, capito? Non me ne frega proprio niente a me. I tuoi sono i miei soldi, non i soldi degli altri. Tu devi avere i soldi degli altri quando poi, hai capito, sei sacrificato, quindi è meglio che si sacrificano gli altri, al posto mio. Fanno quello che devono fare, io me ne lavo le mani. A me lo so tranquillo, vivo una vita mia e sono a posto, non devo mettermi in rischi. Non cazzo esco di testa io, ma ce la faccio, prima uno poi l'altro, sono affari di mia sorella, lascio tutto a lei, si arrangia, fa quello che vuole, assume un'altra persona, fa quello che mi pare e piace, a me non me ne fotte nulla, sono proprio i miei suoi e i miei fratelli, non miei. E a chi ti hanno girato le balle? Eh beh, certo, che mi hanno girato le balle, secondo te, scusa, ce la faccio, arrivo da Marco, hai capito? Quando arriverò all'ospedale a fare il cambio di catetere, ci devo andare anch'io, arrivo alle fino alle 2 di notte perché sono di tutt'ora, no, basta. Si arrangia, prenderà qualcuno e uscirà insieme a lui a fare, perché è pagato e basta, tutto lì. Si pagherà una persona, una la mattina e una la sera. Hai capito? Ma non la portarsi a passeggio, in modo che non stia a casa, girambi i malon glacé. Però non è giusto, dai, cioè è proprio a te che ti devi sacrificare. Ma stai scherzando, quello che c'è da dare si deve dare, basta, cioè lo dà. Cosa stiamo lì a rompere le palle? Cazzo, hai fatto di tutto, hai fatto, Antonio. Ma mancanti, Gemino, qui. Io non so, cosa mi fa? Cosa mai? Guarda, mi voglio godere la mia vecchiaia e basta, in tranquillità, non voglio sapere niente di nessuno. Qualsiasi cosa succeda, non me la fotti nulla degli altri. Adesso mi faccio la domanda del gravamento, eccetera, eccetera. Se mi danno una pensione, mi vivo la mia pensione, bello tranquillo. Se mi danno la signora altrettanto, e io voglio vivere tranquillo, non con dei veri cazzo massacrati, cazzo per fare cosa, l'infermiera agli altri, non esiste, non infermiere, già lo sai, il mandato agli altri, quindi no, basta, adesso ne ho le balle piene, ne ho avuto 6, basta e avanzano. Antone, hai ragione perfettamente, hai sacrificato troppo, adesso basta. Allora vitiglia, pensa a Simona e loro si arrangiano. Arrivato a questo punto, lui vive con te, vive, devi pensare a lei. Appunto per quello, vive con me, non pensare a lei, a me degli altri parenti, cioè di mio fratello non me ne frega proprio niente. Non me la fotti nulla a me, di quei pochi spiccioli che ci sono, non me la fotti nulla a me. Basta che sto bene io, guarda, se me mi danno la... se mi, farò, mi accolgo l'aggravamento quando lo farò, eccetera, eccetera, più quello di Simone, io sto bene. Non devo pensare su altre cose, non me ne frega proprio niente a me. Questa è casa mia, mi tengo casa mia, me la godo finché vivo, poi che quando non ci sono più vaffanculo e gli acceleri di cosa, che se ne frega. Mi mettono da parte i soldi per la casa da morto, quella casa molto ricca. Faccio 100 euro al mese e me la pago. Poi anche se sono solo me la faccio in campagna, cazzo, me la faccio. Tanto non vale più un cazzo con la campagna. A un certo punto mi faccio un loculo lì, tanto giù a cosa non c'è più posto, eh. Già lo sai, via ci metterò, quindi mi faccio un loculo lì, sai che posso portare via, cazzo. Non si può fare, no, deve essere certificato. Sì. Ecco, fa una cosa, visto che così ci può scimmezzare balle altre persone, eccetera, eccetera. Ti ritiri, si arrangino, si chiamano l'infermiere professionale, quello che cazzo vogliono. Tu pensi a Simona, finché va, la barca va a lasciare andare e basta. Pensate a voi due, siete tranquillo, tanto. Ho capito che non c'è riconoscenza, che andò a vedere di là, tutti ci si chiudono in mezzo. Invece di capire e aiutare. E è appunto per quello, quindi faccio così. Me le fate le palle, il prossimo anno sono a posto, penso per me e per Simona. Vi faccio l'aggravamento io, Simona, il prezzo che ci abbia la... con quello che ha avuto c'è la pensione sua, quindi la sua e la mia, e io sto bene. Vivo da re, vivo, senza pensare agli altri. E anche che si arrangino. Se ne hanno soldi, bene, se non ne hanno pazienza, non devo io stare a casa andare a scendere giù, lavare a uno, lavare all'altro. E ne ho fatto le guarda, mi fanno male tutte le braccia, le mani, ne ho portato pesi. Adesso con la mano siamo più a un tubo, capito? Per i muscoli. Se la biglia in culo, non porto più, non faccio più cazzo, se penso solamente alle cose mie e basta, non penso alle cose degli altri. Ma appunto, ogni tanto c'è sempre un innesto. Vabbè, fa niente. Ma guarda, arrivato a questo punto, ti conviene così, ti conviene tanto, cioè ho già capito come l'antifora, come la storia. Ti conviene così perché è un casino, se no. Cioè, veramente no. Ui, esci di capo. Però, a vera vai. E appunto per quello. Quello fisco che ho visto sempre poco fa non è un innesco, è il coso. Un ponte quello, eh. Sto ascoltando con l'altro palazzo. È un po' quello di Vrucci, vedo. Il ponte vabbè, dell'ospedale quello, che fa così, sembra una cantilena, sembra. È un poco di gasino qua. Spettoni a posto sono, sì. Ho capito, i? Gli spettoni sono a posto. Sì, a voglia. Io e mi lo faccio. Faccio un poco di passaggio e poi mi seguo qua, faccio un cracco. E vostro la doccia e via. E poi domani a portare bombole fino a 60 anni. Dopo 60 anni mi dice fa una cosa, vai a far culo, per le bombole. Sì, pure prima, non ti preoccupare. Chi se ne travaglio che ti lascia un segno me. E già lo so, non dicono a me. Io però ti canto degli 80 al terzo piano, fino al primo, e dal primo al terzo. E mi ha crepato i ginocchi, a me mi ha crepato. Infatti c'ho i... vabbè, mi ha crepato anche prima la verità, eh. Ma forse è stato accanto al freddo, al freddo al caldo. Mi ha crepato. Infatti c'ho i ginocchi che d'inverno mi fanno ben male. E anche le gambe. Figurati. E l'uccello funziona. Ho comprato la geggia per l'uccello, me lo sai, da Barra lo spimi. La Resplex. Capito, di plastica. Ma tutto va solo, tu non devi fare nulla, ce lo metti sopra, lui lo infili dentro e lui fa da solo. Si fa la pugnetta. Allora, Ventino, ho fatto un regalo, un amico fatto, cazzo, era sempre cazzo fissato con queste cose qua delle donne, ho preso e gli ho regalato, Ventino, dai cinesi, e tu vai, attaccati a quello, gli ho detto. Ci si non stacca la rito. No, davanti non sono attaccato, mica dietro, davanti sono attaccare. Sono infilato tutto intero, no? E perché lui fa da solo, fa sale e scende, sale e scende, sale e scende. In automatico. Ma se no se no per i minigonna della stazione. Alla stazione. Non c'è più nessuno alla stazione. Aveva mai. Non vedo dove è passata la stazione. C'è capo il fuoco ormai. Era un male. Mi sei fatto franco di sorso, la verità. Ciao Antonio, te lo so, ciao anche a lui. Ali, lascia restare quella gente che c'ha tre gambe. Giulio, cosa ridere. Anche le ragazze stanno oramai, per la questione del coprifuoco, alle 10. E che ci fa a fare? A fare nulla. Come fai a fare il coso con la maschera, cazzo? Sai bene la vita, guarda. Ti metti la plastica davanti e la plastica anche nel pisello, cazzo, prima delle palle, cazzo. Ti voglio vedere. A parte preservativo, vabbè. Però la plastica prima, in modo che lo respiri. Ma il poco di Bernacchi. Pompo, ma sta uscendo male, fai qualcosa, cazzo, vuoi che meraviglia di te, giusto, le cose agliate, tu esci male, controllati qualcosa, esci malissimo, cazzo, siamo alle stazionarie, controlla qualcosa, tutto, non si compra nulla di chi sui D, stai parlando a vuoto, sta uscendo male, 1, 2, 3, e adesso bene va. Cazzo, boh, io non me la figlio, veramente, giusto, le cose agliate, tu esci sempre male, boh, ciao anche a Franco se mi ascolta. Maniaco, avanti. Vabbè, una vita in radio, ma non riesce a capire la rovescia e il fisso. Vabbè, va bene, va. Avanti, Antonio. Sì, capa. È un po' carino, se vuoi fare qualche volta. Sono dei momenti che esce bene, ma avendo dei momenti c'è male, o sarà la batteria scarica del microfono, tutta pernacchi, tutta trudi, però mi sembra il ritorno di RF a me, mi sembra, ma sei sicuro che tutto a posto? Guarda adesso 2, 3, 4, 5, 6, prova. Adesso va bene, un po' di alternata c'è, ma va bene. Cosa vuoi dire l'alternata? Non so cosa dirti. Non rabrudienti. Un giorno, vabbè più o meno l'altro giorno, da parecchio che non è cosa, avevi quella radio, mi sembra che te lo fa sempre quel difetto lì, ma tu prova a cambiare il radio a vedere. Aspetta, cambia radio, va, vediamo un pochettino. Cazzo, ma parte Luca. Cazzo, è allucinante, boh, non si comprende nulla di sui dirsi. No, si comprende nulla, può fare qualcosa a cavolo. Tu sei vuoto un cazzo radio, cazzo, racconta, devo tarlare se non si racconta. Riprendi, ciao Marco, anche io. Ciao, belli bei, sono alla TV, dai, sono entrato a spegnere il baracchino a salutarvi. Un saluto prezioso a tutti, dai. Sì, Antonello è sempre, raramente lo sento uscire bene, non si capisce il perché. Qualità esecutivo, vai Franco, ritenetevi salutati, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao, me lo so, ciao. Purtroppo è così, Antonello è così. Esce un giorno bene e dieci no. avanti a tutti. Cappa, un po' così, cosa vuoi fare? Adesso vediamo se con la radio vediamo se migliora un pochettino. Bene, ti arrivo a sorso. Segnale di 5, la radio buona, 5. Già va bene, dai. Non capisco perché c'è un pochettino coperto verso di me. Seppure, vabbè, sono in zona bassa, ma deve vedere che ho qualche ostacolo per sorso. No, tu mi arrivi quasi 9, mi arrivi. Già va bene. Capo, va bene. Io sto uscendo con 20 watt, sto uscendo, e non è poco. E io di meno di te. Va bene, va bene. Antonello, ci sei? Adesso va meglio o peggio? Sì, questo è un po' chiuso, però almeno è chiaro. L'effettivo 87D, cioè va a far culo, beh. Già mi hai capito, 857D. Questo qua è adesso. Luca, tu cosa dici? Va benissimo qua, va benissimo adesso. Non arrivi a su Gozo, Antonello, più forte di me. Non l'ho guardato, vieni Antonello a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ma sono sicuro che mi sto a modulare Antonio, tanto l'ha fatto ieri. Mi arriva a 7. Mi arriva lui di segnale. Vabbè, appena. Vabbè, considera che non so lui quanti fatti c'ha, io sto andando a poca potenza. No, non sto spingendo, se attacco già arrivo più di lui. Ma Luca, andato via? No, sono qua, è perché è rilasciato Luca e ripreso Antonio. Adesso bene, lo ascolti Antonio. Sì, si un po' occupo, come hai detto tu, però lo ascolto meglio. Guarda che Antonio, anche io arrivo basso a sorso, perché sono negativo, capito? Guarda, adesso che ha detto qualcosa, Luca. Non c'è bisogno che ti avvicini al microfono e te lo mangi, sposta un po' dalla bocca. 1, 2, 3, tranquillo, lo sto mangiando, buona porta. Adesso va meglio, così non hai questi innesci, queste alternate, perché va là, adesso già va bene, dai. Andà bene, sono d'accordo, no. Sai cosa mi sono dimenticato di attaccare? Siccome quando Antonio l'altro giorno mi ha attaccato, ci ha messo a modulare, ho attaccato il lineare, mi sono dimenticato di agganciarlo adesso, e quindi per quello stavo uscendo male con quell'apparecchio, con l'altro 7. Quindi era senza essere alimentato, quindi a un certo punto creava dei problemi, capito? Tu devi cercare una radio che esca bene e non devi stare lì a mettere sempre le peggiori, e metti una che esce bene, te la accorti tutto quanto e la lasci lì a modulare, la lasci, e non deve stare lì cambiando, facendo. Ma io guarda, sono da quando, da tanto tempo, sono anni radio e sempre lo stesso microfono. Eppure sta uscendo bene, penso. Io non mi accorgo, però non mi dice niente nessuno, vuol dire che sta uscendo bene. Già ti ho capito, il problema è che io c'avevo un lineare senza essere alimentato, e quindi faccio schiattare, lo faccio, sono 220 a lineare, il lineare funziona, hai capito? Siccome l'altro giorno Antonio mi sembra modulato, e quindi usciva benissimo. Dopodiché ho preso e ho attaccato, perché facciamo un sacco di casino quel cavo di alimentatore, l'ho fatto tutt'ora, hai capito? Faccio schiattare, Pomponio. E lui mi fa schiattare, ma non ci sono più vale, come prima, no, sono prima di divertivo, la verità, come il 2001, e poi mi attaccavo e non posso farlo adesso con il 58, ma sei matto. Se faccio una cosa del genere adesso, un cazzo ci rimane linea in mano, mi rimane. Già lo so, sto scherzando, sto quanto è. Cazzo, un po' meglio vado adesso a sorso. Adesso mi arrivi 7. Grazie, migliorato un po'. A voglia, ho fatto. Sto facendo una prova un pochettino più consistente, dai. La radio satura, eh. No, no, no, qua io ti ascolto bene, a meno che non ti ascoltano lo stato di loro, che sono più vicino. Sì, sicuramente, dai. Volevo fare una prova solo, volevo fare, adesso ritorno con l'altra radio, e non c'è bisogno di attalacca dell'aria. Già va bene, dai. Ehi, a buia. Ah, va benissimo, va. Non c'è bisogno di lineare per ascoltare. Perché basta le parti della radio. Ah, vabbè, era una prova d'alta potenza, era vedere com'era. Perché ti spiego, attacca, ho messo appena l'antenna nuova. Cioè, perché quella là mi stava dando problemi, quindi volevo fare le differenze, ma ascolto molto di più. Io a te ti ascolto molto meglio, ti ascolto, perché si è staccato un pezzo in quella là. Però, dai, già va bene, dai. Adesso ritorno all'altra radio, ritorno, dai, non c'è problema. Volevo solo provare a vedere l'altra potenza come andava, ok? Ecco, benissimo. No, va bene, va bene. A lei, a te. E via, qua sogno, non c'è problema. E bisogna sempre provare ogni tanto. Oggi sta facendo male Claudio, figurati tu. Claudio di solito usciva bene, invece oggi era tutto a pulci. A volte capita, sono delle, magari delle fesserie, però sono delle fesserie. Vabbè, che io non è che sto pensando come prima al baracchino tutti i giorni, mattina e sera, ormai non sto abbandonando un pochettino, sto pensando, ho capito, più che altro a casa, eccetera, eccetera, e come fratello, cioè, e quindi la parecchia a volte rimane anche spento 3-4 giorni, cosa del genere, ed anche i numeri, non ti credo. Tu figurati che giù a casa di Giovanna c'ho gli apparati che sono fermi già da un mese e mezzo, c'è il Comex 4000 e il termine 9, insomma cosa c'è di più, figurati tu. Se stava uscendo male vuol dire che stava provando una casa radio, guarda, se no non esce male, magari stava provando qualche cosa di nuovo. Ehi, vabbè, se lui gli piace bene, a maniera. Avanti Luca. Ehi, infatti. Io lo stesso, sono da anni con questo microfono, fra, solo il baracchino ho cambiato, ho messo il 3009, penso che stia andando bene, non lo so, boh. Sì, è il cazzo, sta uscendo benissimo tutto, è un segno, quella radio. È inutile, vedi, è inutile che stai lì a toccare, fare, modificare, lasciala stare, vedi che sta andando bene, lasciala stare. Poi se vuoi provare altri tipi di radio, allora è un altro problema, come fanno tutti. Si provano, poi ritolgono e rimettono di nuovo la stessa radio. Sono d'accordo con te. Stai lì a cambiare, fare. Ah, questo qua è il solito abbinamento, un MB più 4 con il 3009 e va più che bene. E l'altro giorno stavo uscendo male giù dalla 25, però non so se è dovuto dal microfono, che è un microfono normale, o non lo so, boh, in escavo, sentivo un'alternata. Ti ricordi a tu? Vabbè, sono quelle cose che... Ma adesso va bene. Mi pare che ti ho sentito abbastanza bene. Non ho toccato niente, penso che vada bene. Ma... Lì, cavolo, ti sento da tutte le parti, anche lì. Non hai problemi, penso anche a Sorso, non hai nessun tipo di problema. Perché lì è più vicino. Sì, vabbè, diciamo che l'Africo sono un po' negativo, Infatti lui mi sta arrivando, Santiago 3. Come 3? A me mi arriva di più. Dipende dalla posizione, capito? Vai, a lui gli sto arrivando 2, cosa ne so? Quanto ti sta arrivando, Franco? Guarda un po', sta andando circa con 10 watt. Tu mi arrivi 3 modulati a 5. È lo stesso segnale mio, ciao, dai, più o meno. Chiaro. Però la radio è buonissima, Io sono molto bene le radio. Beh, aumentegli, sta scaldando la radio e sta aumentando la potenza. Scappa. Più o meno Luca ha lo stesso segnale mio a Sorso, dai, più o meno. Più o meno siete uguali. Scappa, solo che lui ha la mantova, io la ringo. Ah, con la ringo stai uscendo. Cos'è la ciclotabile o la 3-4? ciclotabili non c'è ciclotabile. È la quella tre quarti. Quella dai, dopo però tre quarti d'onda, non ti cazzo di già. Ho capito. Vabbè, hai già preso una tenda del genere, potevo prendere una ciclotabile. Vabbè, cosa faccio? Ce le butto. Ce la butto. È stata comprata, è stata, e cioè cosa faccio? Mica ce la butto via. È stata comprata, quella là me l'hanno regalata, la verità. È andata un po' male, ma l'ha rimessa a posto, adesso appena che l'ha rimessa a posto. Questa era di mio padre, era. E me l'ha data, e cosa faccio? Ce la butto via. Me la piazzo, anche perché è leggera, e cosa, cioè. Va bene, cosa posso? Mica ti dà rampo. No, più bella, no. Allora, la metti a fianco a un'altra, la vostra parte, la metti, se c'è il posto, e usi un'antenna in più. Sì, per adesso lascio questa, poi vedo di cambiarla, vedo. Ah, verità, questa che è più vecchia funziona più bene della nuova, funziona, che è il modello nuovo. Buono. Zona Corso Vico, dai. Zona Corso Vico, Santo Pulinare, dai, diciamo. Sì, la conosco, la conosco. Pensavo che da lì dovessi arrivare anche meglio, dovessi arrivare. Ma sì, in basso, stai trovati da basso. Sì, purtroppo sì, sono in basso, sono. Sono basso, sono stato in Piazza Colonna Mariana, su, è stato tutto un altro discorso, ma qua io sono dentro il posto. Non sono alto. Ma anche nella zona della stazione c'è Gianni Rubropetta che viaggia più forte di me, perché lui è aperto, io no, capito? Capito. Sì, Gianni, se avrebbe avuto l'antenna una ciclo-ottave, diciamo, dai, un senso, una mantova, una ciclo-ottave, sarebbe arrivata la bomba qua. Però lui mi arriva a 7-8, mi arriva, sono sempre che arriva anche 9. Lui è aperto, io no. Io no, assolutamente. Se ero stato nella sua posizione, guai, già, cioè, gli avrei dato una sussa. Ecco, io ho una mantova turbo, e vedo che sta andando sempre bene. Stazionari non è vero, non si muove neanche l'aria. E la Puglia che va bene, no, anche qua questa va benissimo, la stessa cosa. Magari quando prendo umidità un pochettino, ma no, non li fa niente, dai. Va abbastanza bene, va. Avanti! Ale! La posizione è buona, poi ha parlato di acceso tutti i giorni, se no incomincia a dare i numeri come sta facendo a me. Quindi figurati. Molto se so che una settimana senza accedere dietro, un mese, già lo sai che a volte non entro nemmeno, non c'ho neanche tempo, figurati tu. Quindi comincia a dare già numeri. Mia parte che ho io. Basta che ci abbiamo creato boh. Faccio sai, bisogna farli girare tutti i giorni, e se no creato sono incasinato. Se non sono dei cimeli, no, negli apparati che escono bene. Poi l'altro giorno, avanti ieri usciva benissimo, era perfetto. Oggi alternate, merete, eccetera, eccetera. Dipende dai giorni, cosa avete visto io. Allora, l'unico modo che è usare questo. Il microfono sono normale e basta, è l'unico che esce bene. Decametrico, quasi bande, va a fanculo. escluso questo e il 27 e anche gli altri li tengo da parte. Cosa vuoi dire, Caio? Ma tu sei in una zona bassa, sì, di sotto, no? Antonio? Sì. Ho detto, tu sei in una zona bassa di sotto, volevo dire. No, io sono la zona, nella zona più alta, che c'è, verso il Signori. E com'è questa la radio, Antonio? Buona, buona. Questa è la Saponetta, però è un'altra radio, questo è una... Sì, va benissimo, va. Va alla grande. Avanti, Lu. Fate voi che altro chiedo un regolatore di VD. Che cappa, dai. No, va bene, va benissimo. Va veramente bene. Anche quello, no, Ale? Sì, la voglia, che va bene. Va benissimo, è perfetto. Quanto ti arriva a te l'amico da sotto? Tu se ne vuoi più, prova fra. Ciao. Infatti volevo dirti, Antonello, qua è una zona alta e non è mai arrivato al 9 qua. Tu sei dove lo stesso qui. Sono tappato dalle parti dove è la bella pittura, lo sai anche tu. Prima ero tutto libero, quando ho cominciato a costruire qui, questo cazzo di palazzine, a fianco a casa mia, non vedo più senso, non vedo più niente. Poi addirittura quante persone la stessa la tua pettine, col binocolo, adesso sono tutto tappato. Io avrei denunciato quella società. Altro che società, per carità, guarda. Se avevo avuto quello soldi, mi sarei preso una bella villetta, sai, no, su, al centro ecologico, a metà strada, del centro ecologico. Lì c'è che c'è una specie di tipo fattoria, si chiama, ci sono tre cancelli in legno, ci sono. Lì si è al centro, si è in alto, si è al centro, poi in tutto, a destra e a sinistra. E poi appena, sulla sinistra c'è quella pancetta al matto dove c'è la... così c'è la fanculo. Quella è l'acqua. Guarda qua, si abita su, verso la circolazione di Signori, arriva una bomba, non solo a Sassari, ma spacca tutto qua cavalli. È una bella zona. Ti ricordo quando anni indietro, se mi mettevo con la macchina lì, non ce n'era per nessuno. E infatti, è quello che sto dicendo, se tu passi lì e ti metti al centro, proprio lì, un po' più avanti dove c'è quella specie di acquedotto, come dobbiamo chiamare, hai capito? Ti metti lì, c'è una specie c'è una campagna lì, che è recintata, tutta in legno, ma bella, veramente bella, guarda, non ho mai visto una cosa del genere. Se qualcuno fa che pezzo d'ora se l'avesse senz'altro. Se avessi avuto la stazione lì, la stazione base, lì avete fatto 13, guarda, avete fatto con una bella antenna, con un tariccio a 10 metri, se avessi mangiato chiunque te l'avete mangiato, perché lì vedi Sostegno, di Castelsanto, Osino, tutto si vede, non ti manca nulla, ti manca proprio niente, da lì è una cosa allucinante monumentale, guarda. È l'unico punto di Sassari che è aperto in tutti i posti. Lo so, Antonio. Va bene, dai, io vi lascio. Scendo giù a mettere una cosa sotto i denti. Ci sentiamo. Ciao Antonio, mi ha fatto piacere di sentirvi stasera. Ero a tanto che non ne trovo. Ciao Luca, ciao Antonello, si chiama solo. Ciao, riprendi il tonnello e fai girare. Correti per me. Avanti a Tony. Ehi, ciao, ci sentiamo. Dunque di tipo tutto alle prossime. Fate sentire, non c'è problema. Avanti, ci vuol dire altre cose, insomma ricordo male. Marco Condo. Mi sa che ha chiuso Marco Condo, non lo so. Cappa dai, salutoni, ce la risentiamo, alle prossimine ce la risentiamo. Ciao Franco, alla prossima, ciao, ciao, buona sera, buon tutto. Cappa, ciao, ciao. Cappa, salutoni. Sono che... Oia. Stavo dicendo Antonio. Coia, che capo adesso già ci sono tante posizioni belle, ci sono. A chi con una macchina se ti muovi sopra bandiera gialla? All'ultimo piano, no? Non pompi, sei sul tetto. Tu non ti credere, non c'è a perdere, io ho già fatto la prova. Non è come stare, hai capito, quassù. Se tu sali qua sopra, ti ci porto io, in macchina, cosa del genere. In quel punto lì, alla Ughera vivi con una scala, a Sassari altrettanto, addirittura a Osimo altrettanto, sei aperto in tutti i posti, sì. E rimane un po' più spostato dal deposito dell'acqua che hanno fatto in cemento armato, figurati. Ah, ho capito dove stai dicendo. Sì. Sì, tanti punti, ci sono tanti punti della città che... Pompa a me, pompa. Sì, pompa però magari. Ci sono i pregi e i difetti pure. No, rimane a metà, tra il monte e dove abito io, tu figurati, copro tutto, copro. E tu anche, avevo pilato di dove abitava una ragazza che parlava baracchino sul Monte Bianchino. Figurati tu, che era aperta per la zona di Sorso. Tutto si vedeva lì. C'era una campagna che stavano vendendo e non so se l'hanno venduta, se hanno fatto qualche villetta in Chivi, non lo so. Comunque dalla parte opposta ho visto che hanno fatto una specie di... hanno tirato quasi un metro e mezzo di terreno e hanno fatto queste porte in legno che non si vede niente, non si sa che ci sono ville, cosa diavolo hanno fatto dentro, boh. Se c'è un condominio, boh, ma lì è veramente bello, quella è una zona veramente aperta, è allucinante quel punto lì. Già lo so, molto si può vedere la vita. Ascolta, c'è un'antenna in via Principessa Iolanda, ho visto, vicina a quelli dell'Albanoa. Di chi è? In quel palazzo giallo, mi pare. Ma non vedi, Tommy, ancora in radio. Ciao, cosa fa? Vabbè, dai, io ho già mangiato, adesso vado a guardare un po' di TV, dai. Ciao a tutti, buonanotte. Sto usando il baracchino, dai. Già ci sentiamo, qua, tanto quando tolgo il coso, qua. Come mai non sto facendo? E quindi, già. Bene, dai, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, buonanotte a tutti, riprendi a tutti. Ok, ciao Cla, ce la risentiamo. Avanti, Luca o qualcuno, va. Ciao Cla, ci sentiamo alle prossime. Anche se vicino male stasera, come se lo dice, non vale. Quindi, non c'è poco la metà te anche tu. Scusate, devo leggere l'apparato mio, anzi sono l'altro, il decametrico, quindi sembra che esca bene, è l'unico che non ha problemi. No, io sto andando con l'Intel che 3104S, microfono MB+5, ma già sto uscendo bene, dai, per come... dai. Ok, ci sentiamo, ciao a tutti, alle prossimine, vai a tu. Ciao Crash, ci sentiamo. Ti stavo dicendo, Antonetti, in via Principessa Yolanda c'è un'antenna tipo Mantova su un tetto lì. Di chi è? Vicino al Banoale. E chi se ne ricorda? Sono stato lì un sacco di anni lì, la verità. Ci dice che sono tanti miei a Tartari, addirittura cosa ti posso dire? È pieno di antenne di antenne di Mantova e cosa del genere. Se non è attaccata la batta che vai a coso, una Mantova 5 no, è, cioè nuova, non è nuova la verità, ma comunque c'è, c'è la Mantova, quella di del tassista, che non sa Claudio chi è. E lì piazzata non è mai varata, guarda, ti giuro, non è mai caduto, no, mai è caduto niente con l'antenna, non è mai scesa, non è quella, tanto dopo anche l'altra. Mi ha passato lui l'antenna, invece con gli abusi, non le sono mai varate. Sono sicuro che se tu ti compri l'appartamento dove devo che scende il cavo da lui, stai tranquillo che non devi cambiare nulla. Un'antenna l'ho piazzata io e Marco 131, capito? L'impianto è centralizzato, il cavo è dentro praticamente l'impianto elettrico e arriva uno in cucina e uno arrivava in camera da letto di Alessandro, nella cameretta di Alessandro del figlio. E come vedi non è mai caciuta questa antenna, lei farenda a pezzi, ma non è mai caciuta. Dai, vado a mangiare, ciao a tutti. Quella antenna caduta a pezzi, sì, integrale, se quella è caduta a pezzi, quella di coso, del cecco, quella che c'è di fronte a lui, in pratica di male, ci mette in quello di Abruzzi, e te lo ricordi, quella è caduta, al momento si è picchiato il bambino, non so se l'ha spaccato, ma no, quella di Antonio, non è mai varata, né quella è stata nuova l'altra, sono piazzate bene quelle antenne, quelle durano più di 30, 40 anni, te lo dico io, e la troverai sempre lì in quel palo, non sarei mai varata, non si è mai pigiato né rubato, né ritirati, nulla. Sì, già l'ho visto. Babbo, dai, vi saluto ragazzi, ci sentiamo, ciao a tutti, buonanotte, avanti, Anto, bene, sto uscendo. Che stai fischiando malamente. Sto fischiando, certo, ma anche questo non è possibile. Qualcosa è successo in quella radio. Ciao. Ma quella dei Bruca di Abruzzi non c'è più, lo sai. È certo che lo so, Antonio del 20 non ci abita più lì, abita lì punti. Se ho potuto me l'hai detto, c'è Antonio, se vuoi andare, se vuoi vai, staccata, io ho detto, tu c'è, ma l'ho detto. Io sono questo palchetto, chiedo che il servizio a capo condomino, e lo staccato l'antenna, e poi me la porto tutto intera, in metto a calottina, ma tu sei tutto matto, però rimane lì l'antenna, meglio niente, gli ho detto qua. Finché rimane lì intera lì, quando ne cade la sua biglia in culo. Però qualcuno l'ha tolta perché non c'è più. C'è, c'era più da anche 15 giorni fa, adesso non c'è più. Io ho guardato, non c'è più Antonio, quello in via Duca di Abruzzi lì, in quel palazzo giallo lì, che colore è? Non c'è più, te lo sto dicendo. È un palazzo marrone, non giallo. Guarda, anche adesso sta fischiando, Anto. A posto? Che cazzo di spezzone di Fuggiano, va, c'è Valo, vi ricordo, tutto un lo metto in fila di ritiro tutti a testa, cazzo. Lui deve dare a quello che non andava, e cosa vuoi fare, non è colpa loro. A comprare i nuovi e le cose, che non servono a niente quelli di plastica. Well, vabbè, dai, ci sentiamo, vado a guardare un po' di TV, ciao ciao. Sì, bisogna stare attenti saldandoli quei cazzo di PL, lo so già, se no se riscaldi troppo si brucia in subito. puzzinoso, io ne ho dovuto buttare uno, lo so già. Okay, dai, vai, vai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ci stiamo male, ciao, ciao. Ma perché un gatto di PL così, l'altro giorno mi sono incazzato, l'ha giocuto da lucernaio, uno te l'ha giocuto, ma è giunto, 5 minuti mi sono giunto. Perché bisogna stare attenti, ho il saldatore, di non farli scaldare. Un giramento di balle. Sono il pezzo di cosa? Sono di Bertola, già lo sai anche tu. Ragiuno in occhio, cazzo più vecchio. Se ti vedi, è più buono di nuovo se ti vedi. Cioè, cazzo, allucinante. Se cazzo da caboccio. È più buono di quelli che ho comprato ultimamente. Ma cazzo, ma te li immaginetti? Già lo so, dillo a me. Ma non so come cazzo da giubbotto. Lo trovo migliore di quello che... Ma non so, ma che cazzo di materiale, cazzo, ma portate quelle macchinette adatte per questo tipo di cavo e basta. Perché io mi ricordo che c'erano, li avevo comprati. Adesso non so se li avevo comprati da loro o la GBC. Ne avevo dato uno a Lucca, ne avevo dato, mi pare. Quello era buono, ma buono veramente. Ah, sono arrigendi che c'ha roba, sono arrigendi. Non capisco veramente, non capisco. Devi stare attento come li saldi, se no andare in ora a mare, andare. E tutta la roba cinese, io lo sai. Ma così non va bene, però. Non so cosa ci vuoi fare, tutto poi, ci dobbiamo tenere così come sono. Guido più vicio, che ne aveva bugato era meglio di quello, che ho installato, adesso questi qua gli ho messi nuovi e tutto, sono dovuto stare attento. Cioè se tu questi qua li fai scaldare col saldatore, li fai scaldare molto e sono puttiti, no? Ti devi lampare tutto, Io lo so, ti preoccupare. Purtroppo è così. Cosa di poi va? Nulla. Oi oi oi. È stata veramente incredibile. La macchinetta non si tratta più, si tratta di sabuccheria. C'è la macchinetta, c'era di tutto c'è. Prima, adesso ormai è finita da più quello lì. Sono porcellanati, queste cose, cioè quelli qua fanno un sacco di soldi, poi ci sono anche altri materiali, ma comunque anche quelli così, un po' così, sono meglio quelli più vecchi, quelli più economici che c'erano, sono più buoni che si più vecchi che quelli che ultimamente che hanno fatto, veramente incredibile qua. Quelli porcellati erano i migliori, di cui mi è rimasto uno a me, uno solo, certo sono tutti quattro in teflon solo, teflon pure, vabbè di Bertola, quindi già lo sai che tu. Cappa, già lo so già, lo so, lo so, e cosa vuoi fare? Nulla, certo non so, ma me lo porta, dice che ti ricompra, a me lo porta in macchinista. Che ti ricompra buoni e basta, finito. Allora, aspetta un secondo, sto levando le foto. Se cappa, dai, io chiudo, dai, che vado a farmi la doccia, dai che ce la risentiamo, ciao. Ciao, ci vediamo domani, grazie. Buonanotte, buon tutto, alle prossime. Cappa, saluta anche Luca se in ascolto, ciao, ciao. Ciao a tutti, dai, che stavo facendo Roma qua. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao Pupu. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. No, questo è l'Inter che mi ha chiesto che ha fatto la connessione tu con la MB più 5. Va bene, non ne so. Questo microfono da Dia, va benissimo. Bella, no? Sì, bella, cla, bella. Papu, ciao, buonanotte, buonanotte, ciao, ciao. Sì, ciao, cla. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu. un attimo la cosa. Dunque, così mi racconto se esco meglio. Due minuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', aspetta un secondo che ci siamo. Come va adesso? C'è alternata. C'è alternata? Sì, sì, una bella alternata c'è. Va bene, cazzo, perché è strano. Prova, pompo. Aspetta, aspetta due minuti. Vediamo un po' se fa lo stesso difetto. Vedo un ascolto quindi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sì, non so quanto fate sole perché non ci ho fatto mentre in questo momento che per regolarmi. No, c'è solo alternata. Tutta alternata so. Sì, cioè c'è Claudio. Un po' confermare, poi se non ci sia più Claudio, abbia chiuso. Oh, stavo l'altro giorno, ma se pure non me l'ha fatto una cosa del genere. Stavo provando con Antonio, chissà cosa cazzo l'ha pigliato torno, boh. A darmi questa tornata l'avrebbe dato quello là, quello vecchio. E evidentemente c'è qualche conversato nel perché. Hola, hola. Mi sa di sì, c'è qualche cosa che sta in verità. Tempo, controllalo. Ehi, vabbè, quando mi fai detto lo controllo, adesso non posso controllarlo. Ora. Vediamo se c'è alternato, dai, 2 minuti che raggio quella. Sveglia. Guarda Parocco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a te la faccia. La radio mi cuffa. Vabbè, la radio sì. Quello che devo... Vabbè, il microfono, non ti preoccupare per quello. Però c'è alternata o no? No, non le hai. Guarda. Ma quando rimanda non c'è più. Quando tu? Se il quadro rimanda non c'è più. Sì, questo no, c'è stato strano quando rimanda, non so cosa andiamo a fare. Ho capito. Aggiungavi. Sono solo ieri, anzi non ieri, sta solo, 6.50 parlando. Come il mio, stavo uguale. Io quando ho parlato 500 non ho avuto nessuno, fino a che quando 6.50 sono portato al culo. Due anni io ho portato. Bomba, cosa devi fare? Oh, vabbè, purtroppo sì, ma tutti, ma vado, sono un giorno, sono pronto. Non ho capito niente. Sono tutti già sono pronta, no? Se vogliono, mi sono pronto. Beh, senza dubbio. Tanto devo chiamare quella tipa o quella tempa che ho potuto mettere. Se costa più dopo 50 euro, mi ripunti. Se vediamo se... Sto prendendo, se interessa qualcuno, un Mobicom MB40, nuovo, è abbastanza nuovo. L'unico problema che ha è quando lo metti a potenza normale va bene, quando lo metti a potenza più massima, diciamo high, e sei un po' satura, forse è troppo tirato, boh. Qual è il trimerino dei watt? Quei due, bastava che ci sono i nuclei che ho visto, basta, non li farò altro. Non farò la modifica, non li farò un quarto. Ho capito. Devo capire qual è il trimerino dei watt, questo è troppo tirato, boh. Quello dovrebbe fare 1 watt, 5 watt, cioè fa 4 watt, 10 watt. Non ho capito. E intanto esci male. Adesso ci sono bava, sì. E quando scatti fai? Vabbè, pensavo che l'apparato non sta quello che sto usando. Quindi fino da che tu, io sto 1500 euro, e mi non so bene quando lo uso, quando fai 10. Quindi fino da che tu. Ma è un bel cupo alla radio, un bel. Oh, tipo guarda l'apparato come la fa così. Anche io ti sento troppo la testa. Ho capito. Ma giocavi poi al casino, che adesso già le 10, minchia. Non c'è nulla, no, niente. Parlare. cosa. Allora con tua mamma non so come vuoi far parlare. Non so, non mi ha comparato una chat. Come mai? Avevo visto tutto. No, ho capito, mi ho venduto tutto. E ho detto che tua mamma ti ha venduto tutto, tornato con la qualcosa, non faccio la cosa. No, è acceso adesso. Ah, sto parlando, io non va più. Allora, a chiamare. Avuto, ti chiamo di là, così mi senti meglio. Un minuto, sta con solo, sta con l'altro. Così mi sei tranquillo. Almeno mi senti chiaro e poi dove ti tu.